Il bilancio di questi 5 anni di esistenza del Trattato di Ottawa, che mette al bando la produzione, l'uso e il commercio delle mine, è un bilancio, si può dire, di luce e di ombre. Da un certo punto di vista in questi 5 anni sono stati fatti passi da gigante, perché sono più che triplicati i paesi che hanno deciso di aderire al trattato e quindi hanno deciso di rinunciare all'uso di quest'arma in considerazione del fatto che appunto i suoi effetti di lungo periodo sulle popolazioni sono di gran lunga sproporzionate all'utilità militare di breve periodo che invece una mina può dare ad un esercito. Quindi erano 40 i paesi che 5 anni fa sono entrati nel Trattato di Ottawa e adesso sono invece 141. Questo comporta appunto una diminuzione dell'uso delle mine, comporta quasi lo stallo del commercio, almeno di quello ufficiale, delle mine, quindi sono tutti risultati positivi. C'è stata una leggera diminuzione del numero delle vittime, ma bisogna ricordare che per quanto siano state appunto messe al bando da più di 140 stati, le mine rimangono comunque nel terreno di più di 82 paesi, quindi continuano purtroppo ogni anno a saltare su queste mine 15-20.000 persone con gravissime conseguenze. D'altro canto, appunto, dicevamo, luci ed ombre, quindi se da un lato ci sono stati dei progressi, dall'altro c'è ancora uno zoccolo duro di paesi, e sono 44, che si rifiutano di aderire al Trattato di Ottawa, si rifiutano di rinunciare all'uso di questi ordigni. Tra questi paesi purtroppo va sottolineato che ci sono 3/5 del Consiglio di Sicurezza, dei membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, quindi Cina, Russia e Stati Uniti. La Russia peraltro sta continuando a fare uso di mine in Cecenia e gli Stati Uniti, per quanto non le abbiano usate dal 91, cioè dalla prima guerra del Golfo, si sono però sempre, diciamo, riservati il diritto di farlo, e purtroppo è notizia di questi ultimi giorni che la nuova politica statunitense in fatto di mine ne prevede l'uso indeterminatamente, diciamo. Hanno dichiarato ufficialmente che non aderiranno al Trattato di Ottawa, come invece aveva preventivato l'amministrazione Clinton, che aveva detto che gli Stati Uniti avrebbero potuto aderire entro il 2006, e hanno detto che dal 2010 useranno soltanto le cosiddette mine intelligenti, ossia mine che sono dotate di un meccanismo di disattivazione dopo un certo periodo. Però la verità è che quando una di queste mine è nel terreno e nel suo periodo di attività, niente la distingue da una mina normale, quindi il pericolo per la popolazione è lo stesso. La mina intelligente non riconosce un bambino che passa, e se è nel suo periodo di attività salterà come una mina qualsiasi. Quindi la campagna italiana contro le mine quest'anno incentrerà molte delle sue azioni nel fare informazione sull'effettiva gravità del problema, nel fare sensibilizzazione sia dell'opinione pubblica che del livello politico, delle istituzioni, per cercare di fare in modo che si trovi nella prossima finanziaria il sistema di integrare il fondo che è stato stanziato, perché appunto assolutamente non risponde alle necessità, non risponde nemmeno a quanto era stato richiesto dal Ministero degli Esteri, che aveva richiesto addirittura uno stanziamento sui 10-12 milioni all'anno. Quindi a partire da oggi, anche se appunto la finanziaria poi viene approvata alla fine dell'anno e quindi ci sono ancora mesi di lavoro davanti, la campagna italiana contro le mine comincia una petizione popolare, che sarà presente anche sul nostro sito, che è www.campagnamine.org, per far sì che appunto quanti più cittadini possibile siano coscienti del problema e facciano presente alle istituzioni la necessità di non voltare le spalle alle popolazioni colpite dalle mine, appunto mine che anche noi abbiamo contribuito a far proliferare.